Winter Maracca. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti a Testo Croce Show. Amici e amiche di Radio Cage, auguri a tutte. Auguri le amiche. A tutte le amiche, sì. Soprattutto, sì. Oggi è la giornata internazionale della donna. Ah, internazionale addirittura. Sì. Per gli amici, festa della donna. Vabbè. Sì, sì, sì. La festa delle mimose. Festa delle mimose, esatto. E, vabbè, noi siamo qui comunque siamo casualmente perché cade di giovedì, cade molto di giovedì, semplicemente. Quindi, sì, esatto, abbiamo pensato di fare un omaggio a tutte le donne. No, non è vero, auguri comunque. Beh, a tutte. Un omaggio verbale, semplicemente. Un omaggio verbale, senz'altro, sì, sì. Sì. Vi ricordiamo allora i nostri contatti. Dunque, testa o croce show, @gmail.com, la nostra email. Account Skype è testa croce show. E poi abbiamo il blog su testocroceshow.blogspot.com, dove trovate, vi ricordo, i podcast e riassunti delle puntate, e talvolta notizie che non diamo in puntata, sì. Sì. E contenuti speciali, varie cose, foto nostre. Sì, avete visto, insomma, chi lo segue lo sa, è pieno di cose bellissime. Sì, foto del Gab in situazioni intime. Sì, sì, certamente. In chiesa, specialmente. Esatto, sì, sopra. Dunque. I tetti, ricordiamo il reality. Sì. Ci scusiamo, sì, per il ritardo, amici ascoltatori, magari recupereremo 10 minuti dopo le 20. Sì, e, sicuramente. Direi. A questo punto. Passiamo all'almanacco. Di andare all'almanacco di Radio Cage. Allora, oggi si celebra, oltre alle donne, San Giovanni di Dio, San Litifredo di Pavia, San Ponzio di Cartagine, San Probino di Como, San Senano, San Teofilatto di Nicomedia, San Veremondo, San Tunfrido di Teruan e Santi Apollonio e Filemone. Quindi tanti auguri a Unfrido e a tutti gli altri. Vabbè, non ripetiamoli, infatti. E poi celebriamo la scomparsa di Ferdinand von Zeppelin, che è noto per la sua invenzione delle Zeppelin e non solo, ma anche per aver inventato lo Zeppelin, cioè il dirigibile, sostanzialmente, che moriva nel 1917. Lo Zeppelin, il dirigibile. Entrambi. No, vabbè, non scherziamo su queste cose. Comunque, insomma, una persona lungimirante che ha creato un'invenzione che poi è durata per decenni. Sì, tutt'oggi sì. Ci si sposta spesso in Zeppelin, io personalmente lo faccio. Sì, quasi sempre. E poi ricordiamo la nascita invece nel 1979 di Tom Chaplin, cantante inglese dei Keane. Auguri, auguri, compie 33 anni per la precisione. Ricorre anche la nascita di Carl Philipp Emanuel Bach, che è il quarto dei 20 figli di Johann Sebastian Bach. Veramente? Sì. Ma è un musicista anche lui? Musicista anche lui. Tra l'altro, la famiglia dei Bach ha dato al mondo decine e decine di musicisti. Sì, sì, ormai noi ricordiamo spesso. Ogni tanto. Cascano, sì, spesso di giovedì, tra, sì, l'altro, le nascite. E le morte. Insomma, questo si deduce che Johann Sebastian Bach, insomma, si dava anche ad altre attività oltre che a comporre. Ma il cantante di Skid Row, stiamo, esatto, parlando. Proprio lui. No, e fra l'altro, oggi era anche la ricorrenza della scomparsa di un altro Bach, però è un ingegnere, o non ha ritenuto fosse il caso di mischiarlo appunto con l'altro. Ora cos'hai contro gli ingegneri? No, niente, però insomma. E poi Walter Chiari, comico italiano e attore, eccetera. E poi è il compleanno invece anche di Bruno Pizzul, Valerio Massimo Manfredi e Antonello Venditti. Tanti auguri. Tanti auguri. Segnalo già che, a proposito di Bach, a Firenze questo weekend, da venerdì sera a domenica, ci sarà il Bach World Fest, che è una non stop di musica, anche corti cinematografici, film su Bach, quindi chi, beh, si trova da quelle parti. Sì, sì, sembra interessante. A questo punto siamo in tema musicale, passiamo a un po' di musica e ci andiamo ad ascoltare un pezzo delle Phantom Blue, che è una all girl band, cioè una band composta solo da donne, e nel giorno della festa della donna mi sembra appropriato. Questa è Lied to Me. Bentornati, allora questa era Lied to Me dall'album Built to Perform delle Phantom Blue. Penso che insomma diano celebri in un modo degno questa giornata dell'8 marzo. Sanno suonare. Poi c'è chi dice appunto che ragazze suonano poco, invece ho scoperto che ci sono tantissime, all girl band addirittura, cioè band fatte di sole donne. C'è poi tantissime cantanti. C'è addirittura un genere che è prettamente femminile, il riot girl. Punk. No, Riot Girl qualcosa. Ah, ho so se l'hai già cioè, ricorda un ruggito. Ricorda un ruggito, è un genere, girl. Un genere rock punk femminista e prevalentemente al femminile. Bene, parleremo nella nostra prossima trasmissione. Senz'altro, sì. Ma beh, per ora, sì, invece, ritorniamo in ambito religioso. Torniamo a parlare di religione, che sarebbe un po' la vocazione di Testo Croce Show, e tra l'altro interloquite con noi, no, sugli argomenti delicatissimi, sì, che trattiamo. Abbiamo un paio di ansa veloci, oppure passiamo subito al domandone esistenziale della puntata? Bah, do una notizia io. Vai. Allora, da On Deadline, sette membri del gruppo militare Hutari sono accusati a Detroit di aver pianificato scontri armati, tra cui l'uccisione di un ufficiale di polizia, attentato a un funerale e susseguente rivolta contro il governo, ma il loro ora avvocato difensore Swor sta cercando di dimostrare che essi si stavano preparando invece a combattere contro l'anticristo. Niente, un po' di meno. Ogni tanto torna. Questa c'è la linea difensiva. Sì. Ah, vincente, oserei dire. Siete chiamati a decidere se questa sia una vera cospirazione oppure il sacrosanto diritto di David Stone, cioè il capo del gruppo, di aprire bocca e parlare a bambera. Ma questa è dalla difesa dell'avvocato. Ma è fantastico. Queste sono solo persone normali che vivono vite normali. Ciò che facevano era solo la loro forma di ricreazione. Che bellezza. Fra l'altro, Suor aggiunge che Stone, figlio di un predicatore, conosceva bene il libro della Rivelazione e le profezie ivi contenute sulla fine del mondo, e le ha insegnate ai figli, quindi si stava solo preparando per queste, per l'arrivo dell'anticristo, appunto. Non c'era alcun piano, alcuna azione, ha aggiunto l'avvocato, spiegando che molte delle armi sequestrate come prove erano state accumulate per oltre 20 anni. Cioè, questo, come per dire, non è che le avevano usate, le accumulavano e basta, sì, perché certo, lo facevano da 20 anni. Come collezione, no? Sì, collezione, sì. Di armi. Ma è veramente fantastico, cioè questo avvocato io sì, lo consiglio a tutti, no, coloro che hanno problemi legali. Sì, no, sono curiosissimo di sapere se avrà successo, sì, questa linea difensiva, come, oppure no. Come andrà a finire, infatti. Ne abbiamo un'altra? Sì, se ce l'hai, veloce. Ah, va bene, sì. Dunque, allora, da Boing Boing, una giovane truppa indipendente sta girando il documentario Kidnapped for Christ, cioè rapito per Cristo, che racconta la storia di ragazzi cui genitori, cristiani evangelici, pagano scuole di stampo militare, in particolare la Scuola Caribe Dominicana, dove vengono portati con la forza e sono soggetti a trattamenti inumani. Il motivo paventato è di tipo formativo, ma va dai problemi di disciplina in generale all'essere gay. Il film ruota attorno alla storia di David, uno studente modello del Colorado, mandato nel 2006 alla Scuola Caribe senza preavviso. Come altri, è stato rapito praticamente durante la notte, senza ricevere alcuna informazione dalla famiglia né dalle persone che l'hanno rapito, su una destinazione e su quanto tempo avrebbe trascorso in quel luogo. E alla scuola non poteva comunicare con nessuno, e praticamente l'unico modo per far scoprire questa storia è stato il fatto che una troupe che gira questo documentario è giunta lì a quella scuola, gli ha consegnato una lettera che è scritta dal suo migliore amico e ha poi deciso di portare la faccenda alla luce muovendo un gruppo di protesta, ecco. E appunto, se digitate Kidnap for Christ su YouTube potete vedere il video e magari potete decidere di sostenere questo documentario che cerca un autofinanziamento anche a livello Aspetta, popolare. Aspetta, quindi cioè, il titolo è questo, giusto? Sì. Ecco. Ma il documentario è già pronto oppure è No, a quanto so è in via di... Sì, stanno girando ancora. E, sì. Mi sembra comunque sono riusciti a portare via nel frattempo David da quel posto, ma ci sono altri ragazzi, sì, in altre scuole nel mondo. È abbastanza vergognoso, cioè, mi sembra, sì, una buona causa, no, questa di aiutare questo, beh, assolutamente, di questo documentario. Tra l'altro, vabbè, For Christ, il senso appunto è che sono i genitori sono spesso cristiani evangelici e le scuole hanno l'impronta lì, sì, comunque, sì, ecco, certo. No, perché ma gli evangelici sono abbastanza feroci, per quanto riguarda anche proprio l'educazione dei figli, ma anche il proselitismo e tutto. Cioè, sì, sì, però questo è veramente tassato, agghiacciante, pensare cioè, di far rapire sostanzialmente i propri figli. Dovrebbe essere, tra l'altro, cioè illegale proprio, secondo me, cioè dovrebbe essere puniti a livello legale, è una cosa criminale. Che in qualche modo si possa... Non so se nello stato del Colorado c'è la possibilità, ovviamente sono minori, quindi sono sottoposti alla patria potestà, però insomma, mi sembra veramente una cosa vergognosa. Abbastanza, ma andiamo al domandone esistenziale, volevo introdurre con un'altra notizia che è di una decina di giorni fa, il candidato ultraconservatore cattolico alle primarie repubblicane USA, quindi Rick Santorum, che abbiamo seguito da, da vicinissimo nei giorni scorsi, quindi una decina di giorni fa, ha difeso la presenza della religione nella sfera pubblica, scagliandosi direttamente contro il concetto di separazione tra Stato e Chiesa, espresso dalle stesse leggi fondamentali del suo paese. L'ha fatto attaccando l'unico presidente cattolico che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, John F. Kennedy, eletto nel 61, che in un notissimo discorso durante la campagna elettorale del 60 affermò di... E Gab ci legge le parole di Kennedy. Sì, di credere in un'America in cui la separazione tra Chiesa e Stato è assoluta, in cui nessun prelato cattolico dica al presidente, qualora fosse cattolico, come agire, e nessun ministro protestante dica ai suoi fedeli per chi votare, in nessuna chiesa o scuola religiosa è sovvenzionata con fondi pubblici o preferenze politiche. Credo in un'America che non è ufficialmente né cattolica, né protestante, né ebrea, in cui nessun pubblico ufficiale richiede o accetta istruzioni sulla politica pubblica da parte del Papa, del Consiglio Nazionale delle Chiese o da qualsiasi altra fonte ecclesiastica, in cui nessuna confessione religiosa cerca di imporre, direttamente o indirettamente, la propria volontà al popolo o agli atti dei suoi amministratori. Ecco, questa notizia è andata sul New York Times, nel programma televisivo dell'ABC News This Week, Santorum... si chiese in che razza di paese viviamo oggi se solo quelli senza fede possono accedere alla pubblica piazza, aggiungendo in seguito di non credere in un'America, attenzione, non credere in un'America in cui la separazione tra Stato e Chiesa è assoluta. Frasi che hanno suscitato chiaramente polemiche e interrogativi su quale ruolo Santorum intenda assegnare ai due soggetti. Certo, Stato e Chiesa. Ma comunque ricordiamo che non ha molte chance neanche di raggiungere la candidatura contro Obama, Rick Santorum, quindi se non altro non ha molte chance. Comunque diciamo che però è un pensiero. Secondo me lui ha pensato che con questa mossa potesse, cioè un po' forte. Sì, sicuramente sì, perché anche se gli altri candidati sono anche loro molto legati alla religione, come abbiamo letto in qualche puntata scorsa, le loro dichiarazioni sono tutti convinti invece dell'importanza della separazione tra Stato e Chiesa, persino il mormone Romney. Certo, Mitt Romney. E per quanto riguarda quindi il tema e la laicità, per introdurre la domanda quindi ho scelto un paio di passi dei Vangeli. Il primo è quello dal sesto capitolo di Matteo, che recita: quando pregate non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Questo è uno dei miei pezzi preferiti, fra l'altro. Davvero? Veramente. E poi dal Vangelo secondo Marco: gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. Sì, certo. Benissimo, comunque nel domandone esistenziale di questa puntata volevo appunto coinvolgere gli amici ascoltatori e le ascoltatrici sulle questioni della laicità dello Stato. La religione dovrebbe essere un fatto privato o dovrebbe influenzare anche la sfera pubblica? E in particolare, se volete, potete dirci come percepite la situazione dell'Italia, no? In questo ambito particolare in fatto di laicità. E quindi scriveteci testacrocesciocchio@gmail.com o testacrocesciocchio faccio su Skype anche qua in diretta. A brevissimo vi faremo sapere qual è il premio esistenziale. Sì. Che è siamo in già alla terza domanda. Esatto, tra sì, sì. E tra l'altro dico subito un'altra risposta che ci è giunta alla prima domanda, quella sulla compatibilità tra scienza e fede. Valentina da Novara ci scrive che credo che fede e scienza non possano essere compatibili, nel senso che la fede sta proprio nel fatto di credere, a prescindere da ogni prova scientifica o meno. Per esempio, non credo nelle persone cosiddette possedute dal diavolo, penso solo che siano delle persone che hanno dei seri problemi già predisposte a suggestioni particolari. E qui ci sarebbe da... Chi è il nostro ascoltatore? Valentina da Novara. Ah, Valentina. Benissimo, allora andiamo in musica. Andiamo in musica. E questo è, torniamo a quel tempo in cui il rock era ancora pericoloso. Questi sono i Troggs con Wild Thing. Rieccoci qua. Rieccoci in onda. Questa era Wild Thing, i Troggs. Allora, prima di passare a novità assoluta di oggi, allora, intanto una veloce segnalazione. Radio Cage, in collaborazione col Teatro Goldoni, ha organizzato ha messo in palio praticamente 100 posti, 100 ingressi per lo spettacolo di Giacomo Bazzi, il comico di Zelig, che si terrà questa domenica alle ore 21. E in pratica cosa dovete fare per vincere? È molto semplice, dovete essere solo veloci, perché dovete scrivere un'email all'indirizzo concorso.giacobazzi@gmail.com e dovete scrivere il vostro nome e il vostro cognome e poi, se volete, un saluto per una redazione, che ci fa sempre piacere. Praticamente i più rapidi, circa un centinaio, se i posti non saranno meno, riceveranno un biglietto omaggio. In realtà non è esattamente un biglietto, ma verrete accreditati alla biglietteria del Goldoni, quindi vi potete recare poi direttamente in biglietteria, dite il vostro nome e cognome e se siete presenti nella lista potete entrare. Ovviamente questo vi verrà comunicato via email. In alternativa c'è un timbro che viene fatto sul retro della nuca e... non ci credete, assolutamente no. Però vi vuoi depistare, Vince, però nell'email bisogna scrivere grazie Testa Croce Show, vi adoro, oppure vi amo, oppure sono un vostro seguace. O comunque altre frasi che lodano la nostra trasmissione. Oppure anche il nostro grande tecnico Fede. Basta anche dire se avete fede. E... Sì. Anche noi abbiamo fede. Sì, senz'altro. Va bene, ora passiamo a una notizia. Sì, prima abbiamo una risposta al volo, in diretta. Francesco ci scrive: abbasso le culture fondamentaliste, sia quelle dichiarate che quelle semi nascoste come l'Italia. La religione, per il bene della democrazia, se esiste, è bene che rimanga un fatto privato, per il bene delle persone stesse. Bene, grazie Francesco, grazie anche a Valentina. Una notizia che ha fatto molto discutere sempre la settimana scorsa: due ricercatori italiani, Alberto Giubilini e Francesca Minerva, hanno pubblicato sul Journal of Medical Ethics il 23 febbraio scorso un articolo in cui sostengono che dovrebbe essere permesso equiparare i neonati ai feti, perché entrambi non avrebbero ancora lo status di persona, e quindi consentire l'uccisione di un neonato anche quando non colpito da disabilità. I due autori hanno chiamato tale evenienza aborto postnatale. Chiaramente polemica non finire, come più che giusto, cominciare da Avvenire. Gianluigi Gigli si è dichiarato sconvolto dal fatto che i due autori siano italiani. E perché proposte del genere circolano comunque da tanto tempo. Si legga Ripensare la vita di Peter Singer, per esempio, che è un filosofo morale. Secondo Gigli, il vaso di Pandora una volta aperto fa uscire di tutto, giustificando le decisioni più barbare e inumane come il legittimo prevalere degli interessi di chi è persona rispetto a chi lo sarebbe solo in modo potenziale o non lo sarebbe più per le sue condizioni di malattia. Purtroppo il confine è molto difficile stabilire, ma se si porta troppo avanti poi è facile spostarlo ulteriormente in avanti, secondo me, quindi è meglio tenerlo il più vicino possibile al limite inferiore. Ecco. Senz'altro. Adesso passiamo alla novità assoluta. Una novità assoluta senza ospiti questa volta. Una volta tanto. e la introduco con un pezzo in sottofondo che chiedo a Fede di mandare e che poi ci teniamo, ci sentiamo anzi direi una decina di secondi, poi ce lo teniamo in sottofondo. Questo si intitola Song of Pleiadians, la canzone delle Pleiadi. È una canzone che si trova sul sito www.angelo-luce.it. Ce l'ascoltiamo qualche secondo. Bene, come se avete sentito, questa canzone un po' dissonante, a dire la verità. Non mi piace. È una canzone appunto che si trova su quel sito che è gestito dalla Universe People o Cosmic People, cioè persone cosmiche dai poteri luminosi. Queste persone praticamente sono un movimento religioso che è stato fondato da Ivo Benda nella Repubblica Ceca negli anni 90. Praticamente probabilmente la pronuncia non è questa, ma noi lo chiameremo Ivo per gli amici Benda. Sì, sembra un nome italiano in effetti. Sì, Ivo A. Benda, per la precisione. Vabbè, la credenza di queste persone è che esistano delle civiltà extraterrestri in grandissimo numero e queste praticamente comunicano con Benda e con altri contatti che sono stati scelti preferenzialmente dall'ottobre del 1997, quindi molto recente come novità assoluta, e comunicano tramite telepatia e in seguito anche con contatti personali. Ah, quindi ci sono anche altri contattisti? Questo è un... Sì. Non è comune, insomma, tra i vari... No? Beh, insomma... Beh, in genere dici il contattista... No? Pretende di essere l'unico, no? Che parla. Ah, in quel senso, sì, hai ragione. Ce ne sono tanti, però dico. No, hai ragione. Invece Benda, da questo punto di vista, è molto aperto, perché lui già per sua stessa missione fonda questa religione dopo aver letto tanti libri scritti da altri, tra cui Angels in Starships di Giorgio Di Bitonto, Inside the Spaceships di Giorgio Adamski e Adamski. Che è stato il primo, no? Uno il primo astronauta, se non sbaglio. Sì, sì, credo che sia lui. Che poi dopo la spedizione nello spazio, appunto, pubblicò vari libri su contatti con alieni e viaggi. Esattamente. E poi Bringers of Dawn di Barbara Marciniak e molti altri. Quindi lui stesso, per sua stessa missione, fonda la sua religione sulla lettura di libri, prima di tutto. E quindi chiaramente è molto aperto anche a altri che hanno contatti come simili ai suoi. Dunque, come abbiamo detto, appunto, è stata fondata a metà degli anni 90 questa religione e ha ottenuto un certo riscontro nella Repubblica Ceca anche a livello televisivo. Da allora, infatti, Benda ha tenuto circa 180 conferenze, alcuni le considerano un esempio perfetto di mistificazioni, però gli psichiatri generalmente identificano le sue conferenze come delusioni psicotiche, cioè sono manifestazioni delle sue delusioni. Malattie mentali, insomma, via. In poche parole. Però questo ovviamente è opinabile. Dal 98 al 2000 i Cosmic People erano molto settari. Inizialmente erano molto settari, credevano che ci fosse un'imminente catastrofe cosmica e che ci fosse la necessità di evacuare i terrestri su un altro pianeta. Ultimamente invece si focalizzano di più sulla difesa da attacchi negativi da parte dei rettiliani, detti Saurians in inglese. E questi rettiliani sono una delle tante razze extraterrestri, sono malvagi, però malvagi, cioè veramente tremendi, sì, sì. Ci vogliono male. Sì. Che sono comunque una delle razze che hanno avuto più successo, diciamo anche nell'immaginario collettivo, no? Nei film di fantascienza. Sì, assolutamente, tra cui vabbè, Star Trek, ma anche molti altri. Leggici tu, Vinci, uno dei messaggi presenti sul sito a proposito dei rettiliani. In ordine sparso? Direi di partire dal primo. Ok, allora, non fatevi mettere ai vostri cuori i chip dai rettiliani dell'inferno. Oppure, i rettiliani vi stanno preparando, a seconda delle vostre scelte, l'inferno fatto di chip, che è un po' la stessa cosa. In ognuno di questi messaggi ci sono le parole inferno e chip. Non proprio, ma quasi. Fai conto che tu vai sul sito, che è tradotto malissimo, intanto in tutte le lingue, compreso l'inglese, però c'è anche la versione italiana, questa è proprio tratto da una versione italiana, non è una traduzione mia. E non solo, ma ci sono parte una serie di immagini in successione, sono fatte con Photoshop, sono miste di facce di persone cosmiche, di astronavi, scritte in sovraimpressione con caratteri diversi, con orati, una cosa che dà anche fastidio un po' alla vista, e ci sono queste scritte che compaiono. Ad esempio, un'altra di queste slide dice: questo messaggio. Gente, il 98% di voi si fa strada a seconda delle proprie scelte nei mondi oscuri. Già ora la vostra mente è comandata a distanza, al 95% dei rettiliani dei mondi oscuri. Con l'inserimento dei chip nei vostri corpi sarete presto comandati al 99,9%. Solo 2% di voi si dirige nel cielo e così eviterà la totalità del chip. Avete ancora la possibilità che questa piccola percentuale aumenti lavorando su se stessi e con se stessi. Tenete ancora la propria vita nelle vostre mani. Sentite proprio una traduzione fantastica. Di cosa si tratta praticamente questi chip? Cosa sono? Sono, siccome sono molto complottisti, i Cosmic People ritengono che queste persone, questi rettiliani, in collaborazione anche con entità governative, stiano cercando di controllare la popolazione inserendogli dei chip. Questa tempo, era la trama di X-Files, tra parentesi. Sostanzialmente. Sì. Un tempo pensavano che avrebbe utilizzato dei codici a barre, ma ultimamente invece appunto dicono che si sono aggiornati e utilizzeranno dei chip. Tant'è vero che sul sito trovate anche una petizione: non facciamoci mettere il chip. E poi vabbè... vi potrei leggere qualcosa, ma non è neanche troppo interessante. Se volete ve lo andate a vedere da voi. È sempre scritto in italiano stentato e dice sostanzialmente di fare firmare questa petizione per non farsi mettere il chip. Non so come possa funzionare, però. E poi dunque, qual è il fondamento di questa religione? Appunto, queste persone di cui le figure più importanti sono le seguenti. Gorloi, che è il reverendissimo membro dell'Alto Concilio della nostra galassia, è raffigurato come un uomo civetta. Poi abbiamo Elizabeth, membro dell'Alto Concilio della nostra galassia. Poi abbiamo le due figure più importanti, che sono Ashtar Sheran, angelo del paradiso, comandante del grande squadrone cosmico, e Ptah, angelo del paradiso, comandante dello squadrone cosmico delle Pleiadi. Ecco, direi di... forse facciamo una pausa prima. Facciamo una pausa e poi musicale. Ci leggiamo un messaggio che è abbastanza recente, del 29 marzo 2009, di Ashtar in persona. Lui in persona. No, tra l'altro volevo prima dire che Ashtar Sheran o Sheran è anche, anche contattato, almeno secondo loro, da spiritualisti, insomma, come angelo, no? Sì, è un esatto. Nome che circola parecchio, non solo tra gli universi. Infatti poi vedremo che ci sono dei contatti forti fra la spiritualità, anche questa religione, altrimenti non sarebbe una religione, fra il cristianesimo anche e questa religione. Andiamo ancora con un po' di musica. Abbiamo ricordato la morte di Kennedy, anche se indirettamente. Ecco, allora, il pezzo che vi mando, per l'appunto, è stato scritto proprio quando è stato ucciso il presidente John Fitzgerald Kennedy, da Bobby Hebb. È un pezzo famosissimo, che poi è stato rifatto da un sacco di persone, fra cui Stevie Wonder, anche Giorgio Di Bitonto, James Brown, però, ad esempio, e tantissimi altri, Cher, ad esempio, ecco. Anche Cher. E questo è Sunny. Io vi faccio sentire la versione di Marvin Gaye, però la canzone sicuramente la riconoscerete subito e ce l'ascoltiamo. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. My spark of a later supply. You're my sweet, complete desire. Oh, sunny one, so true, I love you. Sunny, baby, I love you. Oh, I love you, sunny. Rieccoci qua. Rieccoci, amici, in onda. A parlare di Universe People, persone universali, cosmiche, dai poteri luminosi. Fantastico. Prima però chiedo venia, perché Adamski appunto non è stato il primo astronauto, ma il primo contattista, diciamo, quel famoso che fece quelle foto dei dischi volanti nel 46-47. Sì, che andarono su molte riviste. Sì, anche, assolutamente. E che tuttora, fra l'altro, non sono state mai smentite come fotomontaggi, se non sbaglio. Ma ora questo no. Ci andrei cauto, però. Vabbè, comunque. Sì. Secondo l'ufologo Roberto Pinotti, leggo ora, che praticamente Adamski è stato, simpatico. No, no. Deviato dai servizi segreti americani, sempre per il discorso del complotto. Cioè è stato censurato questo, o traviato? Traviato, proprio. Sì. Ok, dunque intanto salutiamo anche Valentina che ci ascolta e che ci fa tantissimi complimenti. E Francesco che ci ricorda sempre su questo tema del complotto alieno il video di quell'ex ministro canadese che ha dichiarato che gli USA hanno avuto contatti con gli alieni e della base spaziale sulla Luna per rimandare gli alieni indietro. Io non ne sapevo nulla di questo. Vabbè, però insomma, pare che sia agli atti, secondo quello che dice Francesco, una segnalazione utile. E poi salutiamo anche Andrea, che non riconosce la mia voce, ma sono io. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Dunque, ora direi di leggere, direi che leggerai il messaggio ricevuto da Benda il 29 marzo 2009 da parte di Ashtar. Io? Sì. Non Sumdinius. No. Sì, lo sei. Allora, io, Ashtar, comandante del grande squadrone cosmico, vi saluto. Sono qui, nella nave sopra di voi. Sono lieto di vedervi e notare che vi siete connessi con me ancora una volta. Abbiamo un sacco di lavoro con voi. Voi irradiato sempre maggiori vibrazioni grezze, leggo, sì. Pensieri negativi, e così col vostro pensiero negativo attirate i meteoriti. Noi non possiamo deviarne il percorso, altrimenti non farete esperienza di impatti sul vostro pensiero negativo. E adesso io, Ptah, comandante dello squadrone cosmico dalle Pleiadi, mi sto connettendo con voi. Sì, sono qui insieme ad Ashtar sulla stazione per la condivisione. Vi stiamo ancora aiutando, ma non lo faremo per sempre. Ulteriori eventi stanno arrivando e vi cambieranno la vita. Tutto ciò sta accadendo col consenso del nostro amato creatore. Vi amiamo. Ashtar, Ptah e altri dalle Pleiadi sono qui nelle navi sopra di voi. Puliamo e purifichiamo l'atmosfera dallo smog e dalle vibrazioni inferiori solo entro un certo limite, non interamente, altrimenti le persone non imparerebbero da ciò. Così che voi non soffochiate, voi le persone positive, i nostri fratelli e sorelle. Vi amiamo, noi pleiadiani da Erra nei cieli. Fantastico. Quindi ci proteggono dall'alto, ci osservano, perché loro dovete sapere che sono in orbita attorno alla Terra. Questo Ashtar, appunto, è il comandante di questo grande squadrone cosmico e quindi ci guarda dall'alto e ci protegge. Dunque, abbiamo parlato del loro amato creatore, nostro amato creatore. Si tratta di Dio, appunto. Come ho accennato, c'entra anche molto il cristianesimo con questa religione. Infatti, loro ritengono che Gesù Cristo fosse un essere a vibrazione energetica più elevata, semplicemente. E in una delle slide che si trovano sul sito si legge: Gesù Cristo arrivò sul pianeta Terra. La sua missione toccava soprattutto la situazione con i pseudo creatori e con lo stesso stato positivo e con il bisogno di assumere la guida di tutta la zona di dislocamento al posto degli pseudo creatori. Quello che però è importante era per il motivo di sottomissione di tutti i mali e menzogne e di soggiogamento di tutti gli inferni e di tutta la zona di dislocamento, così come reclusione degli pseudo creatori per annullare il loro governo interno sul loro dominio e sul pianeta nulla. Sull'immagine è raffigurato Gesù, c'è un'immagine con Gesù con delle pecorelle e dice che è un'immagine simbolica degli esseri imprigionati nel loro stato negativo, le pecore, e Gesù che le riporta al loro stato invece puro e libero. Sì, è una metafora non nuova comunque. Sì, comunque avete insomma capito che siamo di fronte a delle persone un po' bizzarre, per dirla in modo gentile. In modo molto gentile, direi, fin troppo. Dunque, quali sono alcune caratteristiche degli adepti di questo movimento? Intanto guardano di cattivo occhio le tecnologie moderne, nonostante Benda appunto ne faccia grandissimo uso, cioè anzi, fa un uso grandissimo dei media, della televisione specialmente, però è comprensibile, deve pur farsi pubblicità in qualche modo. E, inoltre, altre caratteristiche, hanno spesso problemi di infrazione di copyright, perché Benda afferma che le unici detentori di qualunque copyright sono le persone cosmiche universali, quindi non è mai un reato infrangere in realtà il copyright. Mi sembra di aver letto perché a loro non interessa, no, del copyright. Sì, alle persone universali non interessa nulla, e quindi siccome sono loro gli unici detentori, decidono loro cosa è giusto e cosa è sbagliato. Vediamo alcune regole di comportamento consigliate da Benda per essere una persona cosmica. Condurre una vita regolata, amorevole, armonica, orientata all'aspetto spirituale ed affetti. Amare il creatore originario di tutto e di tutti, il proprio spirito e anche il proprio corpo fisico. In questo modo amate anche il creatore vostro, perché anche voi siete una parte di lui. Non bere eccessivamente l'alcol, nel miglior caso non berlo mica, fumatori devono minimizzare il consumo delle sigarette, nel miglior caso non devono fumare mica. Deve prendere una sigaretta. Perdonare ai prossimi da se stesso, e noi lo perdoniamo. Perdoniamo subito al nostro tecnico. Poi amare altre creature umane, anche quelle che fanno male a voi, poiché loro fanno solo quello che sanno fare. Amare tutte le altre creature animate, anche quelle inanimate. Minimizzare il consumo della carne, nel miglior caso non mangiarla mica. Sono anche loro vegetariani, pensa un po'. Liquidare, annientare letteratura negativa, cioè libri e riviste su guerra, erotica e extraterrestri negativi, perché ci sono anche gli extraterrestri negativi, positivi, tra cui UFO, sequestri, colli di navi cosmiche, eccetera. Emettitori di energia di vibrazione grossa, grezza sarebbe, in realtà tradotto un po' male. Non leggere libri e riviste negative, non seguire film negativi, è giusto ignorare politica, poiché è piena delle vibrazioni grosse. Cioè la politica è vista in modo negativo, perché appunto pensano che ci siano questi complotti internazionali con la collaborazione dei rettiliani. Sono anarchici. Beh, in un certo senso sì. Poi non possedere beni eccedenti, 2 e più case per se stesso, 2 e più automobili per se stesso. Cioè, aspetta un momento, loro dicono di possederne più di 2? No, non possedere beni eccedenti, quindi non di possederne una sola. Credo non più di 2, ah, non so se due. È compreso o escluso, quindi o una o 2. Non si capisce, dovremmo scrivere una mail penso che lo agli farò. Universe people. Potete farlo anche voi, ovviamente. Andate sul sito angelo-luce.it. Poi vediamo gli ultimi 2, gli ultimi 3 sono 10 come comandamenti della Bibbia, guarda caso. Secondo le proprie possibilità, aiutare gli uomini che ne hanno bisogno. 9. Almeno in modo minimo lavorare per gli uomini per quanto riguarda la diffusione di informazioni relative agli amici dal cosmo, in modo mite e non imponente. 10. Non fare male alle altre creature, che in realtà sono 4 comandamenti che dicono la stessa cosa, cioè non fare male alle altre creature, però in effetti è una cosa importante, quindi giustamente viene ricordata. Si può ribadire con piacere. Bene, direi che siamo giunti più o meno alla conclusione della nostra novità assoluta. A parte ricordarvi e invitarvi a vedere il sito, che è molto divertente per queste sue caratteristiche, è molto amatoriale nella fattura, nella traduzione, si trovano tantissime tracce musicali, di cui vi ho fatto sentire solo un piccolo esempio, ma ce ne sono molte altre, fra cui, appunto, interessante, c'è un file audio, tra l'altro piccolissimo come dimensioni, che si intitola Rumore di una nave spaziale. E io l'ho ascoltato, ma dura circa 2 secondi e sembra vuoto, completamente vuoto. Quindi deduco che le navi spaziali sono silenti. Sono molto lontane, immagino. Forse è quello il motivo. Sì, raccontateci poi le vostre esperienze con il sito degli Universe People. Se scrivete loro, fateci sapere insomma cosa vi hanno risposto. Loro invitano comunque a aiutarli anche a fare la traduzione. Certo. C'è anche un corso in cieco sul sito, proprio per le persone, in modo che poi possano fare una traduzione migliore. Una domanda, ma c'è qualche accenno a questioni di soldi? Diciamo che è incoraggiato un piccolo finanziamento, donazione, però vabbè, questo in effetti lo fanno un po' tutti. Sì, ma tutti, anche le persone virtuose, diciamo che non ci fanno, non ci premono troppo su questo aspetto rispetto a altre, che già è molto buono. Bene, però chiedono più che altro di diffondere, anzi vi faccio presente, c'è anche proprio una slide nel sito, la trovate, con le istruzioni per stamparvi dei mini cartellini come biglietti da visita da poi mettere nelle cassette delle poste delle persone, su cui c'è l'immagine di Ashtar e delle indicazioni appunto per far conoscere questo problema dei chip che ci verranno messi a breve facciamo qualcosa. I famosi santini postali, no? Esattamente, esattamente. Va bene, allora torniamo, dopo questa novità assoluta sconvolgente, se devi dire, torniamo in questo mondo, in particolare in questo mondo di ladri, siccome oggi è il compleanno di Antonello Venditti, un omaggio. Dai, come ti permetti? Ah, no, nel senso la canzone, pensavo voi dicessi che era un ladro. La canzone di Antonello Venditti, In questo mondo di ladri, un omaggio. Auguri Antonello. Ci fidiamo di Dunque, state con noi, state con noi amici e amiche di Radio Cage. Dunque, torniamo a parlare di news, no? News, allora, in occasione della giornata internazionale della donna, quindi festa della donna, auguri a tutte le donne, sì. Diversi quotidiani italiani ed esteri, tra cui La Stampa, pubblicano oggi un appello di alcune scrittrici, registe, attiviste e femministe di diversi paesi arabi, in cui si rivendica con forza parità di diritti per le donne anche nel mondo arabo, anche come monito contro le degenerazioni di stampo religioso e integralista che purtroppo stanno attraversando la cosiddetta primavera araba. Nelle nazioni arabe le donne tuttora soffrono una delle peggiori condizioni del mondo intero, dove la violenza, quella pubblica o privata, resta diffusa, perché le leggi sulla famiglia nella maggior parte dei casi non fanno che istituzionalizzare l'esclusione e la discriminazione, come consentono de facto anche i codici civile e penale e le altre norme. La violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne si manifesta con l'istituzione di pratiche come la poligamia e il matrimonio di minori, con disuguaglianze nei diritti in campi come il matrimonio, il divorzio, la custodia dei figli e l'accesso alla proprietà e all'eredità. Ci sono leggi che coprono i delitti d'onore, che permettono a un maschio della famiglia che uccide una parente di invocare le attenuanti, e tutte queste limitazioni di diritti hanno un più o meno diretto retroterra religioso fondato sull'applicazione della Sharia islamica. Sì, quindi sì. Diciamo che sottoscriviamo, cioè, diciamo, e diffondiamo questo messaggio. Diciamo che non ha fondamenti in realtà nel cuore dell'Islam a livello religioso, ma nell'applicazione della diciamo le autorità islamiche. Purtroppo. Invece, sempre a proposito di Islam, però andiamo più su un aspetto sessuale, è una cosa positiva questa in realtà, perché Wida Luta, consulente matrimoniale per il Palazzo di Giustizia di Dubai, nonché musulmana ultraconservativa, addirittura indossa sempre il velo, quello più restrittivo, non ricordo il nome, quello proprio che lascia scoperti solo gli occhi, invita le donne musulmane del mondo arabo ad abbracciare l'amore e fare l'amore, perché ovviamente anche il sesso è un argomento molto particolare nell'ambito islamico. Lei dice che ci sono solo due semplici regole per il sesso nell'Islam: devi essere sposata e non devi fare sesso anale. Tutto il resto, inclusi atti sessuali al di sotto dell'ombelico, sono consentiti. Questo dice Wida Luta. E nel 2009, ricordiamo, lei ha pubblicato la guida al sesso musulmano Top Secret, Sexual Guidance for Married Couples. Il libro le ha provocato una serie di insulti, condanne pubbliche e addirittura minacce di morte, sempre ovviamente per lo stesso problema di cui abbiamo detto prima. Sì, ma è il solito problema dell'interpretazione dei testi. Esattamente, no? Perché è chiaro che se un testo scritto magari 1500-2000 anni fa, in tempi completamente diversi, contesti culturali completamente diversi, c'è scritta una frase, oggi in teoria andrebbe interpretata in un certo modo, invece sì, ci sono sì. certe persone che la interpretano in... Talvolta neanche ci sono scritte, ma quando ci sono spesso... Nel Corano so che ci sono delle cose abbastanza esplicite, sì. però... Esplicite, ma bisogna vedere per come noi... Vengono, bisogna vedere come vengono interpretate. Esattamente. Pure, quello è il discorso, cioè, sembrano esplicite perché sono traduzioni che non tengono conto dell'ammodernamento dei tempi, appunto. Va bene, torniamo, visto che c'eravamo a inizio puntata, negli Stati Uniti, a Washington. No, allora aspetta, prima dico un'ultima cosa sulla questione di conservatorismo religioso che incide Certamente. Sui diritti delle donne. In Tunisia, il presidente del partito per l'apertura e la fedeltà, Bari Ilassi, o Jlassi, non so, ha proposto all'Assemblea Costituente di inserire nella futura carta anche il riconoscimento del diritto degli uomini di avere non solo una moglie, ma anche una odalisca, cioè una vera e propria schiava sessuale o giaria. Secondo Ilassi sarebbe la soluzione per combattere divorzio, adulterio e nubilato. Mi sembra che non sia invece una soluzione adeguata. Vabbè, ovviamente. Ognuno si faccia la sua idea. Comunque, insomma, torniamo negli sì, USA. Torniamo negli USA. Dal The Journal, da oggi la carta della religione applicata alla politica non è più una esclusiva dei repubblicani americani, perché il presidente Barack Obama ha partecipato recentemente al National Prayer Breakfast, un incontro di preghiera che si svolge ogni primo giovedì di febbraio dal 1953. Parlando alla folla riunita, Obama ha detto che le sfide dell'America richiedono forti valori, tanto quanto brillanti idee, ed ha fatto riferimento alla sua convinzione che i ricchi debbano pagare più tasse, e l'ha collegata alla sua fede. Per me, come cristiano, coincide con l'insegnamento di Gesù che a coloro a cui molto è stato dato, molto deve essere richiesto. Quando parlò di condividere la responsabilità Quando parlo, scusate, di condividere la responsabilità è perché sono davvero convinto che in un momento in cui molte persone fanno fatica, in cui il deficit è enorme, è difficile per me chiedere agli anziani con un reddito fisso o ai giovani che devono pagare le spese scolastiche o alla classe media o a famiglie che possono a malapena pagare le bollette e farsi carico da soli della situazione. Ecco, diciamo che almeno quest'ultima parte, da parte mia, è assolutamente condivisibile, anzi invito a prendere esempio da questo discorso anche il governo attuale italiano. Sicuramente qualche ministro ci sta ascoltando, quindi. Sicuramente. Va bene, allora ci prendiamo un'ultima pausa musicale. Benissimo. Perché no? E dopo torniamo con delle segnalazioni. E i saluti. Allora ci andiamo ad ascoltare un pezzo dei Savatage dall'album Handful of Rain, e questo è Taunting Cobras. Ecco, bentornati. Allora andiamo con qualche segnalazione di eventi imminenti. Yes. Allora, intanto vi ricordo subito questo concorso indetto da Radio Cage in collaborazione con il Teatro Goldoni. Praticamente mandate un'email all'indirizzo concorso.giacobazzi@gmail.com col vostro nome e cognome se volete aggiudicarvi un ingresso gratuito per lo spettacolo del suddetto Giacobazzi, comico di Zelig. Benissimo, e non dimenticate di aggiungere nell'email saluti nel corpo... per Testo Croce. No, che sì. Saluti, lodi smodate. Proprio. Idolatria per Testo esatto, Croce. Senza esatto. Dignità. Benissimo. Dite che vi abbiamo mandato noi. Sì. Allora, poi martedì 13 marzo all'Ex Aurora ci sarà il quinto caffè laico, ormai avete già sentito, è familiare questa sì. Cosa. Ci sarà Pardo Fornaciari che introdurrà l'argomento il bardo livornese che introdurrà l'argomento il Rinascimento, nascita del libero pensiero. L'ingresso è libero e gratuito dalle ore 21. Bene, invece già stasera, questa stessa sera alle 22:30 al Teatro delle Commedie, anche conosciuto come Teatro C, ci saranno gli Indovena che accompagnano Rama, reduce insomma dalla sua esperienza di X Factor. Le canzoni appunto saranno le canzoni di Rama e gli Indovena faranno solo d'accompagnamento e l'ingresso è gratuito. Ma quindi, Rama quello del Ramayana? Non esattamente, è quella ragazza con cui gli Indovena collaborano ormai da un po' di tempo e che ha una grandissima voce soul R&B. Infatti vi dovete aspettare questo tipo di musica se andate. Altrimenti il 10 marzo, sabato, ci sarà il concerto di Bobo Rondelli al The Cage, in cui presenterà il suo ultimo lavoro, L'ora è ormai. L'apertura della biglietteria è dalle ore 21, le porte si aprono dalle 21:30 e lo spettacolo, il concerto inizia alle 22:30. L'ingresso sono 15 euro più diritto di prevendita, se comprate tramite prevendita. Bene. A Ferrara, sempre sabato 10 marzo dalle 18:30 alle 20, ci sarà un incontro di meditazione Cerchio di Luce aperto a tutti. Coloro che amano meditare insieme alla presenza dei maestri ascesi e dei fratelli di luce. Dopo un momento di meditazione individuale formeremo un cerchio di luce e di guarigione per l'umanità ed il pianeta, in rete con tutti coloro che si connettono a distanza. Sembra noi mandiamo sempre le onde d'amore ma sembra sì. Un po' che riguardi internet questa cosa, rete, connessione sì, a distanza. Sì, no? Si richiede solo un piccolo contributo spesa ed offerta. Prima della meditazione, dalle ore 16, su prenotazione, è possibile ricevere un trattamento energetico secondo gli insegnamenti Essei o Reiki. Sempre Essei? Essei. Ah. Beh, Reiki o forse SI, è più conosciuto. Non so. Sì. Ah, okay. Tra l'altro, su Vade Retro dello scorso sabato, la trasmissione di TV2000, hanno parlato proprio di Reiki, parlando secondo loro, connessioni tra Reiki e satanismo. Loro parlano sempre di connessioni tra qualcosa e satanismo. Sì, certo. Bene, se invece siete dalle parti di Roma domani, alle ore 15:30 fino alle ore 18:30 c'è una conferenza, Attivazione della coscienza collettiva. alla biblioteca Bhaktivedanta Library in via Celsa 4-5. Praticamente di cosa si tratta? È un'attivazione della coscienza collettiva in base al calendario Maya profetico, nell'interpretazione di C.J. Kalman. Si tratterà del processo in atto di trasmutazione dell'inconscio collettivo alla coscienza collettiva, con tutto ciò che questo determina a livello biologico e umano. Siamo in un'epoca di cambiamenti, ormai questo l'abbiamo capito tutti, insomma. Tranne me, io non... No, non l'hai capito. Scoprirai quando sarà troppo tardi. Il fatto è che il cambiamento è continuo, capito? Tutto è in divenire, quindi perché individuare un periodo particolare... No. Sì, è vero, però insomma vedi che anche nelle novità assolute compare sempre una data vicina come data di grande cambiamento. Certo. Quindi bisogna prepararsi, insomma, guarda, e purificarci da energie negative. Davvero, per conto mio però. Ho capito. Poi a Roma, sempre sabato 10 marzo dalle 16 alle 20, ci sarà Swami Kriyananda, o Swami insomma, la pronuncia, sì, che tornerà a Roma anche quest'anno per presentare il suo ultimo libro, che è una biografia di Paramahansa Yogananda, che è appunto il celebre maestro che ha scritto il suo libro più famoso, Autobiografia di uno yogi, e appunto sarà sabato 10 marzo al Teatro Valle, via del Teatro Valle 21, ingresso libero. Ci saranno anche l'onorevole Paolo Masini, responsabile della Commissione Cultura del Comune di Roma, e Giacomo Campiotti, un regista. Il sito di riferimento del libro è www.biografiayogananda.it. Se invece siete abitate al nord, a Milano c'è la conferenza Ciò che pensi si manifesta, sottotitolo Seminario di Metafisica. Dunque ci sarà questa domenica, 11 marzo 2012, dalle ore 15:30 alle ore 19, a offerta libera. Gli argomenti sono questi: come i nostri pensieri ricorrenti creano le nostre condizioni di vita, strategie per rendere positiva la mente e manifestare soltanto il bene e la perfezione. Seminario di Metafisica tenuto da Rosa Maria Ferranti. Dunque, programma dell'attività rapidamente: ore 15:30, accensione di un fuoco, così, tanto per cominciare bene. 15:45, decreti di prosperità, qualunque cosa siano. Ore 16, le programmazioni mentali, conferenza, argomenti di studio, il piano divino di perfezione, le programmazioni, le autorità, la legge del mentalismo, il meccanismo del pensiero, la legge di causa ed effetto o karma, le cause della felicità. Poi alle ore 5 una piccola pausa, alle 5:20 il trattamento spirituale, riprogrammare la mente con il decreto, la visualizzazione, la magnificazione e la preghiera scientifica, la fede, la gratitudine, la benedizione, come sapere che dobbiamo cambiare. Io sono positivo. Poi alle 19 assorbimento della fiamma, quella che era stata accesa alle 3:30, esatto. Nel frattempo ci butteranno un po' di legno, suppongo, per non farla spengere. E, probabile. Per informazioni mandate un'email all'indirizzo rosamaria.ferranti@metafisicaitalica.it oppure all'indirizzo web www.metafisicaitalica.it. Guarda, se ci avessi tempo, il teletrasporto e un sacco di soldi, io me li farei tutti questi. Lo so, ma guarda, anch'io. Sono in molto realtà, psichedelici. Anche questo sì, è offerta libera, come anche molti altri che abbiamo letto oggi. Sì, ma anche è quello dell'offerta con amore? No, offerta libera questa. L'altro invece non lo so, dovete andare a vedere sul sito. No, infatti, ricordavo bene, perché questo seminario di metafisica richiede come costo donazione volontaria amorevole, che è un bel modo certo di porla. Sì, sì, è vero. Bene, dunque, ricordiamo i nostri contatti. Sì, siamo giunti in chiusura, allora scriveteci anche durante la settimana, rispondete alle nostre domande sugli argomenti di cui abbiamo parlato in trasmissione a testacrocioshow@gmail.com. Oppure controllate il nostro blog testacrocioshow.blogspot.com. E aggiungete, tenete presente, lo Skype, testacrocioshow. Dunque, a breve sul blog sono in arrivo i nuovi podcast, che sono già pronti, aspettano solo di essere linkati nel blog. Ottimo. Allora, abbiamo finito un po' dopo, come avevamo detto, un po' dopo il solito, ma manca la trasmissione dietro l'angolo di Jacopo Mascagni, che ha insomma avuto un contrattempo. Quindi c'è tempo di fare una bella cena e poi sì, c'è... E poi appena arrivano gli amici di Arena Top Again, massimo alle 9, ma probabilmente anticiperanno un po' anche loro, ci sarà la trasmissione appunto di cinema consueta. Benissimo, quindi rimanete con Radio Cage. Noi ringraziamo voi per averci ascoltato e per aver discusso con noi. Ringraziamo Federico, come sempre. E andiamo con la nostra sigla. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao. imagine there's no heaven. Sky.